Yamaha T-Max. Il maxi scooter di Iwata tira fuori gli artigli. Più stabile sul veloce grazie al nuovo telaio e alla ruota anteriore di maggior diametro, guadagna una frenata da super sportiva. Il prezzo già alto cresce ulteriormente. Nome: Yamaha T-Max 500. Dimensioni: lunghezza 2195 mm, interasse 1580 mm, altezza sella 800 mm, peso a secco 203 kg. Motore: due cilindri in linea a quattro tempi raffreddato a liquido, cilindrata 499 cm3, distribuzione bialbero a quattro valvole per cilindro, alimentazione a iniezione elettronica, omologazione Euro 3, serbatoio da 15 litri, potenza 43,5 cavalli, trasmissione, frizione automatica centrifuga, variatore automatico, freni a doppio disco anteriore da 267 mm, posteriore singolo da 267 mm. Prezzo 9.395 euro, chiavi in mano.